il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oleoliti, creme, oli essenziali. Sempre di più oggi se ne fa uso e si trovano in giro le proposte più disparate. Tra le ultime, personalmente, ho avuto modo di trovare creme a base dei fanghi di Abano Terme o dell'olio extravergine di oliva dei Colli Euganei. Ma oggi partiamo da questo, ma in realtà vogliamo parlare di un'esperienza particolare, un agriturismo, o potremmo dire una famiglia, che ha scelto di vivere dedicandosi proprio alla produzione di prodotti a base di erbe e di piante, ma in un modo particolare, raccogliendo direttamente la materia prima tra i boschi ed i prati della Val Gramigna, che è una bellissima vallata in provincia di Verona, dove appunto la famiglia Bagattin ha deciso di trasferirsi qualche anno fa in un luogo, direi, non molto comodo da raggiungere, ma di grande fascino, a una ventina di minuti di macchina da Tregnago, in provincia appunto di Verona. Ringrazio quindi il titolare Giovanni Bagattin della disponibilità a intervenire qui oggi. Buongiorno, grazie a voi, grazie della chiamata. Ecco, volevamo cogliere intanto l'occasione della tua presenza, sia per sapere chi siete e cosa fate, e magari anche capire qualcosa di più della differenza tra questi prodotti, senza entrare nel tecnico, perché non abbiamo presunzione, insomma, di fare una lezione, tu non sei un chimico. Ecco, però partiamo da che cos'è erba madre e come vi è venuta l'idea di lasciare altre attività professionali per dedicarvi a questo. Ma diciamo che questo è stato un sogno che posso adesso dire realizzato, diciamo. Perché appunto il fatto di poter lavorare a contatto con la natura, facendo delle cose che piacciono, creando anche benessere, perché comunque poi prodotti erboristici è anche un'applicazione che comunque va verso il benessere della persona, era appunto un sogno. E quindi però bisognava fare una scelta in pieno, nel senso che si doveva appunto in toto decidere di spostarci con la famiglia, con i bambini piccoli, e di cominciare a realizzare questa cosa. Insomma, siamo venuti qua perché l'ambiente lo consentiva, lo consente tuttora. Siamo, il fatto di essere scomodi consente una biodiversità che in altri posti è impensabile, per cui nulla più che raccogliendo quello che è spontaneo, dopodiché parallelamente facendo delle piccole coltivazioni più che altro sulle aromatiche, avendo un piccolo laboratorio di trasformazione riusciamo a chiudere il cerchio, diciamo. Ecco, qui si va oltre al biologico, in realtà proprio addirittura sono erbe spontanee. Sì, le erbe spontanee hanno la caratteristica appunto di aver vinto tutte le battaglie, per cui c'è questa selezione naturale che consente di crescere solo a quelle che appunto trovano l'habitat ideale, per cui già è una cosa molto, molto interessante, insomma. Perché la scelta di questo tipo di lavoro? Poi è particolare sentire che si parla di un agriturismo, fate anche accoglienza, eccetera, quello che fanno normalmente gli agriturismi, ma un agriturismo che si dedica a questo. Sì, vi siete mossi proprio con l'idea di andare a realizzare ololiti, creme, prodotti di questo genere? Oppure è venuto quando avete visto il posto e si prestava? Ma no, la scelta è stata fatta perché c'è stata una sorta di chiamata, nel senso che a un certo punto della vita, la maturità così, avevo necessità di avere uno sbocco diverso, insomma. Nel frattempo mi ero appassionato al discorso piante officinali, per cui ho detto devo realizzare quello che è la chiamata, diciamo, questo sogno, insomma. Per cui abbiamo cominciato con piccole trasformazioni, dopodiché con l'avvento in azienda di un chimico, di Andrea, che col quale condividiamo proprio anche il discorso di filosofia, insomma di pensiero, e abbiamo fatto il salto con la cosmesi è difficile, però si partiva sempre dal presupposto di poterla fare con gli oleoliti, quindi la parte funzionale attiva data dalla pianta che qua si trova, insomma. Ecco, quali sono le piante che si trovano nella Valle Tramigna? Beh, allora di spontaneo, guarda, io ne ho classificate più di 70, perché passiamo siamo molto ben esposti a sud, quindi è un clima mediterraneo. Dopodiché nella parte dietro c'è già un clima più montano, dopodiché nella parte bassa si va verso il torrente, quindi c'è tutta quella che è la flora idrofila, diciamo. Quindi facendo una passeggiata di poche centinaia di metri si incontrano veramente tipologie differenti anche come habitat, insomma. Quindi una parte del vostro lavoro è quello di andare in passeggiata e raccogliere, sì, tra virgolette, e raccogliere le erbe. Voi sapete dove sono, come chi un po' va alla ricerca di funghi, sì, nella stagione giusta, quindi quando sono della maturazione che ideale per quello che, certo, è il vostro obiettivo, e le dovete raccogliere, portare in sede e lavorare. Certo, hai toccato un punto molto importante, proprio quello del tempo balsamico, cioè si va e si raccoglie solo quando la pianta te lo chiede, per avere poi il massimo dell'efficacia, perché non è che se non è il momento non si raccoglie, insomma. Quindi il fatto di abitarci e di vivere il territorio ti consente di farlo nel momento in cui c'è la massima espressione, insomma, della pianta. I vostri prodotti, chiamiamoli così, che cosa hanno di diverso da altri che si trovano sul mercato, anche, non so, omeopatici o comunque di erboristeria, quindi prodotti sicuramente molto buoni, ma c'è qualcosa di diverso che vi caratterizza? C'è questo qua che si diceva adesso, il fatto che, appunto, il fatto di poterci vivere ti consente di cogliere il momento fondamentale dove c'è la massima espressione, come dicevo. Dopodiché abbiamo fatto una scelta, per esempio nella cosmesi noi non utilizziamo tutto quello che non è contemplato nel disciplinare ICEA, IAB, insomma, quindi è logico che non facciamo uso di siliconi, parabeni e tutti i sottoprodotti dell'industria petrolchimica, insomma. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ok, grazie. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. torniamo in linea con Blue Radio Veneto e con il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di Erba Madre, un particolare agriturismo condotto da Giovanni Bagattini e della sua famiglia nella Val Tramigna, in provincia di Verona, e che ha scelto come attività principale quella di realizzare prodotti a base di erbe che crescono soprattutto spontanee nella vallata. Ma che cosa sono questi prodotti? Cioè, ci puoi dire così proprio a grandi linee la differenza? Quando parliamo di gemmo derivato, di olio litto, di olio essenziale, di che cosa stiamo parlando? Ecco, allora praticamente l'oleolito non è altro che, intanto è ad utilizzo esclusivamente esterno, e non è altro che praticamente la pianta che interessa viene messa a macerare in un olio che per noi è l'olio d'oliva, perché comunque è nell'areale nostro, diciamo. E questo olio fa da solvente e, lasciato al sole, e praticamente dopo 3 settimane si ha l'estrazione completa del principio attivo. Quindi, non so, facciamo un esempio: l'iperico, che qui è spontaneo e che ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche, cicatrizzanti, eccetera, lo raccogliamo appunto in tempo balsamico, lo mettiamo a macerare in olio d'oliva nostro e dopo 3 settimane si ha l'estrazione completa del principio attivo iperico, l'ipericina, insomma. Questo è l'olio litto. Questo è l'olio litto. Dopodiché ci sono le tinture, praticamente ogni pianta ha una parte che è più attiva, che può essere la radice, la foglia, il fiore, la corteccia, quello che è, e si raccoglie questa parte, la cosiddetta droga, diciamo, si raccoglie questa parte di pianta e si mette a macero, in questo caso in acqua e alcol. Teniamo conto che ogni pianta ha una gradazione specifica alla quale si estrae il principio attivo, quindi può esserci qualche variazione a livello alcolico, di gradazione alcolica. I gemmo derivati è una delle cose che ci piacciono di più e che prossimamente espanderemo ulteriormente, perché è proprio la gemma, è proprio l'anima della pianta. Quindi ci sono proteine in esse contenute che poi, quando la gemma si sviluppa, vanno a perdersi. Per cui anche a livello di rimedio diventa veramente completo e va ad agire anche su problematiche piuttosto serie. Ecco, e beh, gli oli essenziali invece sono... Gli oli essenziali si estraggono tendenzialmente in corrente di vapore e con un distillatore, ed è la parte aromatica pura, insomma. Servono per profumare. Le frazioni, esatto, profumate. Ecco, so che dobbiamo concludere, ma una curiosità, mi pareva di aver visto che voi effettuate il recupero anche di tutti i prodotti, di tutti gli imballaggi, quindi le scatolette eccetera, in cui dovete mettere questi prodotti proprio perché non ci sia un inquinamento, ma anche per cercate di ridurre il vostro impatto piantando appunto erbe, alberi o altro, calcolando un po' quale sia il vostro impatto ambientale, quindi ridurre la vostra impronta, chiamiamola così. Certo, teniamo conto che partiamo già da un impianto fotovoltaico da 12 anni funzionante, quindi in tempi non sospetti siamo stati tra i abbastanza, non ce n'erano tantissimi all'epoca, diciamo, ecco. E dopodiché abbiamo utilizzato il vetro volutamente per poterlo recuperare, perché appunto i gruppi d'acquisto, che sono particolarmente sensibili a questa cosa e che coprono praticamente un 70% di quello che è il nostro, quello che facciamo, sono sensibili, per cui poi ci rendono il vetro, gli viene riconosciuto un valore a questo vetro che si recupera, e lo recuperiamo, lo riutilizziamo, insomma. Ecco, come si possono trovare i vostri prodotti? Tramite i principali gruppi d'acquisto del Veneto? Sì, gruppi d'acquisto del Veneto, lavoriamo con molti, specialmente nella parte dell'est, da Verona verso est, diciamo, quindi Vicenza, Padova, Treviso, arriviamo a Mestre. Ecco, non c'è un sito internet, ma c'è una pagina Facebook cercando Erba Madre, dove si può trovare il numero di riferimento. Se vuoi dare il numero di telefono. Sì, è 045 650 0283. Benissimo, se qualcuno volesse mettersi in contatto può usare questo numero o appunto cercarvi su internet e magari anche venire a farvi una visita. Alla strada è difficile, ma si ritrova. Fa la passeggiata a piedi, volentieri. Benissimo, grazie. Grazie a voi, salve, buona giornata. continuiamo la trasmissione e andiamo a concludere in realtà con alcune brevi notizie. E parliamo sempre di un prodotto natalizio invernale veneto per eccellenza, la mostarda. Con l'accordo tra Coldiretti e Boschetti Alimentare S.p.A., questa confettura piccante a base di mele cotogne, pere, pesche, ciliegie e canditi diventa italiana al 100%. Domani, mercoledì 14 dicembre, viene infatti siglato un patto di filiera affinché l'attività della ditta agroindustriale sia valorizzata per l'impegno verso la promozione del Made in Italy. L'azienda veronese lavora già oggi 40.000 quintali di frutta di provenienza regionale, in gran parte fornite da agricoltori e cooperative della zona. Parliamo adesso di vino. Quest'anno la produzione di uva nell'Unione Europea risulta inferiore rispetto al 2015, soprattutto a causa delle condizioni climatiche avverse registrate in alcune regioni vitivinicole dell'Europa. La qualità del vino però si annuncia buona. Leggero è il calo di produzione in Italia, che resta quindi il principale produttore europeo con circa 50 milioni di ettolitri di vino. Questo anche perché la Francia, l'altra nazione di maggior produzione, ha visto diminuire la quota di produzione di circa il 12%, raggiungendo i 42 milioni di ettolitri, ed è stata quindi raggiunta da vicino dalla Spagna. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.